Io ti posso dire solo di non cambiare. Continua con la tua testa e non farti mai influenzare da niente, da nessuno, sai, fanculo la gente. Fotti tene del mondo e non sentir più niente. Tutto entra e tutto esce, fa soltanto male. E con il tempo che passa riuscirai a dimenticare tutto lo stress che hai già subito e dare voce ad ogni fiato che non hai mai gridato. Oh. Ciao France, cambia così non puoi continuare, non si gioca più e la tua testa la devi cambiare. Cambia, quasi imposto e addosso gridato da gente dalla quale non me lo sarei mai aspettato. Il gusto di vedere le cose in un modo diverso, del non farsi accettare in questo grande universo, immerso nei pensieri da tutti questi anni. Non ho ancora trovato il tempo di asciugare i miei panni sudati. Cerca di capire ciò che ascolti e non quello che dico, ma mi saluto andandomi la mano e sulla guancia un bacio, strusciando guance, so che nessuno usa più il proraso. La gente è povera, c'è truscia ed è un avviso. Mi invitano a cambiare, ma non come gli articolo 31, dicendomi che comunque oggi o domani non sarò nessuno, ma almeno so che così io posso raccontare le storie di persone che non possono manco parlare. Io ti posso dire soltanto di non cambiare, continua con la tua testa e non farti influenzare da niente, da nessuno, sai, fanculo la gente, fotti tene del mondo e non sentire più niente. Tutto entra e tutto esce, fa soltanto male, ma con il tempo che passa riuscirei a dimenticare tutto lo stress che hai subito e dare voce ad ogni fiato che non hai mai gridato. Ogni giorno provano a farci cambiare con scuse più o meno valide, tutte da farci indossare. Queste scuse mi vanno strette, quindi le ho tolte, nonostante di queste scuse me ne abbiano usate molte. Oh, i diversi anni, sai, non sono mai cambiato. Come gira e come vota, a me me lo hanno sempre inculato. Gli amici veri sono sempre pochi, ma sono buoni. Ma delle volte di queste persone conosci soltanto i cloni. Ma io non cambio, sai, con me può cadere anche il mondo. Max, scendi da casa, cazzo, io sono già in ritardo. Imperfetto, impreciso e forse anche un po' scemo. E anche se oggi non ho mai abboccato a nessun amo, per quanto forte questo vento possa tirare, io non posso cambiare, io non riesco a cambiare. E per quanto a volte la vita è insipida come il sale, come entra esce fa soltanto male. Io ti posso dire sempre solo di non cambiare, continua con la tua testa e non farti influenzare da niente e da nessuno, sai, fanculo la gente, fotti bene del mondo e non sentire più niente. Tutto quanto entra e tutto esce fa soltanto male, con il tempo che passa riuscirei a dimenticare tutto lo stress che hai subito e dare voce ad ogni fiato che non hai mai gridato.